La Rosa Purpurea di Franco D'Assisti. Eccoci puntuali all'appuntamento con il cinema, questo Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisti, questa è La Rosa Purpurea. Dobbiamo parlarvi di parecchi film che sono usciti in questo fine settimana, che trovate in sala sul grande schermo. E allora cominciamo subito con The Equalizer, Il Vendicatore, protagonista Denzel Washington, azione firmata Antoine Fuqua. Sentiamo la clip. Io credo che tu possa essere ciò che vuoi, cambia il tuo mondo. Avevo promesso di non tornare mai più a essere quell'uomo. Poi un giorno qualcuno fa una cosa terribile a una persona che conosce appena. E tu ti metti in mezzo, perché puoi. Sono qui per una ragazza. 16 secondi. Queste le parole e le note di Equalizer con Denzel Washington, storia abbastanza vista e sentita, di un ex agente della CIA che ormai lavora come impiegato in un supermercato, pensate un po', vive da solo, sotto casa conosce Alina, una prostituta russa adolescente, ne viene a conoscenza della storia, tiranneggiata dai suoi sfruttatori, e allora gli scattano i 5 minuti al nostro Denzel Washington, ritorna la spia che si amava e comincia a ritirare fuori l'armamentario e a stritolare uno dopo l'altro i cattivi della mafia russa, ridiventando quell'equalizer, quell'aggiustatore di cose, colui che riporta l'equilibrio che aveva un po' sopito dentro se stesso. C'è chiaramente l'azione, come dicevo, firmata da uno specialista come Antoine Fuqua, c'è Denzel Washington che è sempre un personaggio estremamente carismatico, c'è Chloe Grace Moretz che invece ha la bellezza delicata di sempre. Ma c'è anche Boris Sollazzo, che non è ancora andato in viaggio di nozze, però ha superato abbondantemente i bagordi del suo matrimonio ed è qui con noi. Ciao Boris. Ciao Franco, non sono sicuro di averli superati, però insomma, vabbè dai, provaci. Comunque c'è Boris Sollazzo, non nel film, assolutamente, non sei un equalizzatore anche tu. Sì, ero nella parte della prostituta russa, infatti. Ecco, infatti con parrucca bionda. Vabbè, possiamo andare avanti con il commento di questo film. Mi sembra che insomma tutto è quello che deve essere, né sorprese ma neanche abbondanti delusioni forse. Esattamente questo, è una fotografia perfetta del film, perché The Equalizer è la dimostrazione di quello che possono fare Denzel Washington e Antoine Fuqua insieme, diciamo il minimo che è molto per molti altri. Non è Training Day, non ci illudiamo, non vi illudete, non c'è quell'ispirazione, non c'è quella profondità anche dell'abisso che si va a toccare. Questo è un film di genere, è un film in cui ho l'impressione entrambi abbiano bisogno, in attesa di un terzo film che faranno insieme, abbiano bisogno di ricostruire la loro immagine di stelle dei rispettivi settori e anche di forza commerciale. E ne nasce un film molto strano, perché l'ispirazione è una serie televisiva che si chiama Un giustiziere a New York di una trentina d'anni fa, dove là però si parlava di qualcuno che aveva una doppia identità. In questo caso non c'è una doppia identità, in questo caso tu capisci subito chi è il personaggio di Denzel Washington, capisci immediatamente cosa gli passa per la testa e cosa probabilmente lo ha in qualche modo chiuso in quella vita monastica che lo porta sempre nello stesso diner, che lo porta sempre alle stesse abitudini. Detto questo, il film però ha qualche stranezza di troppo, nel senso che è scritto bene, anche se con una trama troppo arzigogolata, è girato straordinariamente, il protagonista è carismatico, però la struttura è quella di un film insomma spara e fuggi, di un film d'azione troppo scoperto, ci sono troppe esplosioni, ci sono troppe insomma scene un po' arroganti, un po' forti, un po' facili, che non fanno parte né di Washington né di Fuqua. Ne viene fuori un film da promuovere, ma ho l'impressione che sia soprattutto propedeutico al prossimo lavoro che i due faranno insieme. E allora, questo per quel che concerne The Equalizer. C'è un altro filmone, diciamo così, insomma, un altro film potenzialmente di cassetta, anche questo distribuito in circa 200 sale, che arriva in sala appunto in questo weekend, si intitola I due volti di gennaio, nel cast protagonisti Viggo Mortensen, Kirsten Dunst e Oscar Isaac, che abbiamo visto nell'ultimo film dei fratelli Coen, a proposito di Davis. Ci servono nuovi passaporti, nuove identità. Ho un amico, forse conosce qualcuno che vi può aiutare. Davvero lo faresti? Saprò come ricompensarti. Non lo faccio per soldi. È su tutti i giornali. Se ti costituisci... Arresteranno te come complice. La verità è che ormai siamo inseparabili. Se mi prendono, tu sei spacciato. Se prendono te, tu mi denunci. E allora, Atene, 1962, una coppia di turisti americani piuttosto dispari, nel senso lui, Viggo Mortensen, di una certa età, lei, giovane e bellissima, Kirsten Dunst, sono lì per godersela più o meno, incrociano casualmente le strade di Rydal Kiner, un giovane americano, anche lui trapiantato lì in Grecia, che se la passa, insomma, come dire, con qualche truffa e qualche imbroglio, e chiaramente entrano un po' nel mirino, ma soprattutto lei, Kirsten Dunst, entra nel mirino di Oscar Isaac a livello sentimental personale. Ma le cose cambieranno quando sui passi di Viggo Mortensen arriva dall'America un signore molto violento che vuole indietro i soldi con i quali il nostro ha truffato dei potenti malavitosi americani, e da lì si passa nel thriller, anche perché la firma letteraria di questo lavoro è quella di Patricia Highsmith, e quindi giallista assolutamente conosciuta e raffinata, e i toni anche del film diretto da Hossein Amini sono quelli appunto di un giallo classico, senza particolari sbavature, magari non con colpi d'ala intensi a livello di regia, ma insomma abbastanza solidi, Boris. Devo dire che secondo me il colpo d'ala c'è anche perché noi siamo così poco abituati ormai a qualcuno che gira e racconta in maniera classica, che chi lo fa così bene, secondo me, in qualche modo fa il salto di qualità, fa la giocata del campione. Qui noi abbiamo di fronte una storia che da qualsiasi parte la vedi, l'abbiamo già vista. Se la vedi dalla parte del triangolo, se la vedi dalla parte del rapporto Pigmalione allievo, perché di fatto quello è quello che succede tra Mortensen e Isaac, tanto che il pretesto della possibile liaison tra Dunst e Isaac è in verità lo specchietto delle allodole della vera relazione morbosa e potente che c'è nel film, che è quella tra i due uomini, che davvero sviluppano un rapporto molto molto forte. Ecco, francamente, in un cinema che tende ad essere molto approssimativo, un film così ben raccontato che riesce ad appropriarsi degli schemi classici senza farli sembrare vecchi, passati, secondo me merita un applauso, perché a volte ci scordiamo quanto anche è bello raccontare certe cose in una certa maniera. Assolutamente d'accordo, tra l'altro anche con, e qui non dico più niente, colpo di scena finale notevolissimo per chi lo capirà. Poi ne parleremo magari su Facebook, con la nostra pagina della Rosa Purpurea, nelle prossime settimane. Adesso invece giochiamo insieme, perché siamo arrivati alla prima traccia del film misterioso di oggi. Che hai fatto alla faccia? È tutta sporca. Lo so, stavo pulendo il camino. Non abbiamo un camino. Che cosa? Avete già capito di che film si tratta? Scriveteci titolo e vostro nome, cognome e indirizzo alla rosapurpurea@radio24.it. Provate a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film. Più tardi un'altra possibilità, ora viabilità, poi torniamo con tutto il cinema che c'è. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, andiamo avanti con i film. Vi ricordo che in questo weekend è uscito in 50 sale anche Il Regno d'Inverno, Winter Sleep, il film del turco Nuri Bilge Ceylan, vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes. 3 ore e 16 minuti di cinema in un villaggio sperduto dell'Anatolia, insomma, avremo modo poi di parlarne. Adesso voglio invece introdurre un film di cui si è parlato moltissimo, molto atteso a suo modo, perché tutti quelli che lo hanno incrociato ne hanno parlato come, se non di un capolavoro, insomma, di un film veramente molto molto interessante. Si intitola Class Enemy, lo dirige Rock Bicek. Sentiamo la clip. È colpa di questo sistema scolastico di merda e di quello che questi idioti pretendono da noi. Ecco, brava, è una vita che lo dico. Allora ci saremmo già ammazzati tutti. Se non riusciva a sopportarlo, non poteva vivere in questa società. Allora secondo te di chi è la colpa? Già, merda, qui tutti ci vogliono tolleranti e gentili verso pederasti, stranieri, animali. Ma in realtà sono tutti marci, quindi non c'è da meravigliarsi se siamo come siamo. E allora, film scolastico, nel senso che si svolge in una scuola, arriva un supplente, è un insegnante di tedesco, un professore i cui metodi sono molto, molto duri, molto rigidi rispetto a quello in cui sono abituati quegli studenti. Siamo in Slovenia e a un certo punto arriva il dramma, arriva una ragazza che si suicida parte il tutti contro tutti, che forse è un regolamento di conti interno a quello che è lo stato attuale della società slovena, Boris. Assolutamente sì, è un film geniale, un film che a mio parere non è solo il migliore della settimana, ma probabilmente sarà uno dei migliori dell'anno. Class Enemy racconta sostanzialmente due cose. Uno, lo stato attuale della società slovena, un paese post-comunista che deve ricostruire il suo ordine e deve capire qual è il grado di libertà che vuole e come lo vuole ottenere, anche un paese di mezzo tra una cultura tedesca e invece una cultura più sud-europea. E dall'altra parte c'è invece un ragionamento proprio sul cardine del film scolastico, cioè quello che noi abbiamo imparato con L'attimo fuggente forse non è vero, forse la libertà, forse cogli l'attimo non è la cosa giusta, forse la scuola è fatta per imparare delle regole. Bishek fa una cosa clamorosa, prende un attore straordinario, non concede nulla alla retorica, mette in campo una lotta senza quartiere tra un pigmalione e degli allievi, dimostrando quanto possono essere cattivi i secondi e quanto deve in qualche modo mantenere il proprio ruolo il primo, anche a scapito di se stesso, e senza nessuna concessione, nemmeno a un colpo di scena, porta avanti un film di un rigore e di una potenza straordinaria. Questa è veramente una rivoluzione. Come gli altri due film, ci si mette in un genere, anche in qualche modo consumato, e si dà qualcosa in più. In questo caso, secondo me, si costruisce un sottogenere, si costruisce un punto di partenza nuovo. Questo è straordinario quando si parla di cinema. Perfetto, Boris, questo è Class Enemy di Rok Bicek. Appuntamento alla prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema! Andiamo avanti con la trasmissione per introdurre un film che si porta dietro anche un tema molto sensibile, molto delicato, che sta anche provocando delle polemiche. Non è certo il film a farlo. Il film è Io sto con la sposa. Io sto con la sposa, presentato recentemente alla Mostra del Cinema di Venezia, un tris di registi che lo firmano: Antonio Agugliaro, Gabriele Del Grande e Khaled Soliman Al Nassiri. È una storia molto molto interessante, quella che vede appunto la sposa del titolo protagonista di una sorta di favola su quella che è la civiltà oggi e su quelle che sono i temi dell'accoglienza, della solidarietà, della non belligeranza. Noi sentiamo la clip e ne parliamo. I suoni arabi, arabeggianti, perché è la storia di un matrimonio, poi fondamentalmente quella di cinque protagonisti in fuga dalla guerra che arrivano a sposarsi. Palestinesi siriani che sbarcano a Lampedusa, cercano la Svezia, trovano l'Italia e trovano un documentario, anche se potremmo definirlo quasi un documentario in costume, ad aspettare. Noi siamo in collegamento con Terenzio Cugia, che oltre che distributore con la sua Cineama di questo film e portatore di una formula molto innovativa di distribuzione. Salutiamo Terenzio, buongiorno. Buongiorno. Allora, dicevamo, intanto un po' documentario, ma con anche il tentativo di cucirgli addosso letteralmente l'abito da sposa, questo film. Sì, lo dichiarerei un docufilm, nel senso che effettivamente è un documentario, perché tutto quello che viene raccontato è effettivamente avvenuto in quattro giorni di questo viaggio straordinario da Milano a Stoccolma. Però è veramente un film perché non ha i toni del documentario, non è una denuncia, non cerca di fare pietismo, ma cerca di coinvolgere lo spettatore esattamente come fa un film a livello emotivo, a livello di sensazioni. Per questo lo troviamo una formula molto molto particolare, che a mio avviso riesce a trasmettere questo tema della solidarietà, della difficoltà, della emigrazione clandestina, senza diventare un film né pesante né di denuncia nel senso vero, ma a mio avviso tocca delle corde molto più profonde. Ecco, questo è un tema molto vivo, molto forte nella nostra società, e questo Io sto con la sposa, con questo tono un po' favolistico, effettivamente lo affronta nel modo giusto. Ma la cosa interessante, Terenzio, è quella che avete fatto nella distribuzione. Cineama nasce proprio con un concetto che io trovo estremamente moderno. moderno, non quello di portare i film sul piccolo schermo del computer con le anteprime streaming, che però annullano, mortificano, direi, quella che è l'essenza del cinema, che è lo sguardo sul grande schermo, la visione e la fruizione in sala collettiva. Invece Cineama fa il contrario, chiede ai social di spingere per distribuire un film e vederlo in sala, ed è quello che è successo con Io sto con la sposa. Esatto, cioè si tratta di un po' invertire quello che è la tendenza al momento e cercare di usare la rete a favore del cinema e non viceversa. Per cui a nostro avviso è importante, ed è quello che siamo riusciti a fare in questo film Io sto con la sposa, di partire con un coinvolgimento del pubblico addirittura prima della nascita del film stesso. Questo film è stato finanziato da oltre 2.800 persone per 100.000 euro complessive, che è un record, che sono state coinvolte prima ancora che il film venisse realizzato. Questo permette di creare un coinvolgimento che poi abbiamo portato avanti tramite eventi, ad esempio il corteo delle spose al Festival di Venezia, e permette alla gente di sentirsi un ambasciatore, uno spettatore, ecco, più la parola attore che spettatore, del film, e dunque di farsene portavoce e di portarlo, di spargerne la voce anche in rete. Ti chiedo, Terenzio, quali sono gli altri film che il popolo dei social sta spingendo per farvi portare in sala? Per ora ci stiamo concentrando su un film sudafricano che si chiama Lucky, che è la storia di un bambino che deve passare dalla sua vita, diventa orfano, da un villaggio alla grande città, e diciamo che ha delle similitudini con Io sto con la sposa, perché è un tema difficile, in questo caso un bambino orfano in un paese abbastanza complicato come il Sudafrica, però viene trattato anche lì in una maniera molto interessante, molto particolare, senza che sia uno sguardo dal di fuori, cioè ci si sente parte del protagonista e della sua vita. E allora ricordiamo ai nostri ascoltatori come possono fare, se hanno in mente un film che hanno visto, di cui hanno sentito parlare, lo vogliono vedere in sala, come possono fare interagire con Cineama? Ma c'è il nostro social, noi abbiamo oltre 20.000 iscritti attualmente, www.cineama.it, in cui ci possono scrivere, appunto richiedi una proiezione o prenotare una proiezione di un film che abbiamo già, ad esempio Io sto con la sposa, prenotarlo nella propria città tramite la nostra app Facebook, e dunque richiedere in questo modo una proiezione nella propria città, che noi poi, contattando delle sale che abbiamo, con cui abbiamo i rapporti, riusciremo ad organizzare nell'ambito di un mese o due. E allora, insomma, scrivete se avete desiderata, perché Io sto con la sposa, per esempio, in questo momento è in 23 sale cinematografiche in tutta Italia, in una dozzina di regioni, quindi visibile da una grande fetta del pubblico. E questo grazie proprio a questa modalità che ha usato, come ha detto giustamente Terenzio Cugia, la rete per andare al cinema e non il contrario. Grazie Terenzio, buona fortuna con il tuo Cineama. Grazie, arrivederci. Dopo questo interessante contributo, noi continuiamo a giocare con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Devo andare. Vengo con te. È troppo pericoloso. Scusa, ti amo, non mi odiare. Peter! Eh beh, qui c'è quasi la firma, insomma, su questo film. Diteci il titolo del film completo, mi raccomando. Diteci il vostro indirizzo, provate a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film. Noi intanto sveliamo titolo e vincitori della scorsa settimana. Questa città va verso un disastro di proporzioni bibliche. Proprio una roba da collera divina. Esatto. E allora, si trattava di Ghostbusters, il film con cui abbiamo giocato la scorsa settimana, che torna con una grande serie di eventi per i suoi 30 anni. Torna anche, dicevo, in Blu-ray con un cofanetto tutto speciale. Lo vincono, per quanto riguarda i nostri ascoltatori, Alessandro D'Ercole di Livorno e Giuseppe Laurenza di Aprilia, provincia di Latina. Sono stati loro, i nostri due ascoltatori più veloci ad indovinare il titolo la scorsa settimana. E del titolo del game Ghostbusters, ovviamente più che del titolo, della confezione di questo film di culto, parliamo con gli amici di Film TV e con Giulio San Giorgio, che è in collegamento con noi. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, in occasione dei 30 anni di Ghostbusters e dei 25 di Ghostbusters 2, Universal Pictures ha rilasciato questo cofanetto celebrativo che è una saga assolutamente di culto degli anni 80, uno di quei film che i fan recitano a memoria, un film che è stato inventato da un gruppo d'attori del Saturday Night Live, Bill Murray, Dana Aykroyd e Harold Ramis, che volevano girare un film sullo spazio e si sono trovati ad accalappiare fantasmi. Il sequel questi Ghostbusters 2 per la prima volta presentato in Blu-ray, l'offerta di tutto il cofanetto di altissima qualità, l'elenco degli extra talmente lungo che occuperebbe l'intera rosa purpurea, e il film lo potrete vedere tra l'altro al cinema il 18 e 19 novembre. Una piccola curiosità, è in cantiere anche un terzo episodio della saga tutto al femminile. E beh, davvero tante cose. Effettivamente hai fatto bene, Giulio, a ricordare la proiezione, tra l'altro in 4K nei cinema il 18 e 19 novembre, imperdibile. Saranno sicuramente due giorni di festa, e anche lo spettacolo teatrale, il musical Ghostbusters Live, che è partito dal Teatro Nuovo di Milano ma che sta girando tutta Italia, quindi anche lì è una sorta di film rivissuto dal vivo, se vogliamo, piuttosto divertente. Andiamo avanti con le segnalazioni, perché come sempre andiamo a dare un'occhiata a quel che c'è di grande cinema in televisione. Visione, e abbiamo scoperto che ci sono due Hitchcock, abbiamo detto mettiamoli insieme e parliamone. Giulio. Sì, il Club dei 39 su RaiMovie alle 6.30 di domenica e in tempo internazionale su Iris alle 21 di lunedì. Il primo è l'opera più famosa dell'Hitchcock inglese, thriller di inseguimento come al solito su un uomo ordinario coinvolto in una storia decisamente bigger than life e raccontata con un miracoloso equilibrio di toni tra un ritmo travolgente e derive da commedia, caratteristiche che nel secondo film, veramente un classico dell'Hitchcock americano, raggiungono apici elevatissimi. Un'altra storia di un altro uomo ordinario che viene scambiato per spia, rapito da un'organizzazione terroristica, poi accusato di omicidio e viene incanto in una serie di colpi di scena. In questo è veramente un trionfo dei temi hitchcockiani e soprattutto di uno spettacolo intelligentissimo e della gioia del cinema classico. E allora ricordiamo gli appuntamenti: domenica 12 ottobre il Club dei 39 RaiMovie alle 6.30 del mattino, e lunedì 13 Intrigo Internazionale su Iris alle 21. Grazie Giulio, a risentirci. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati così alla fine della nostra trasmissione, non mi resta che il tempo per salutarvi, darvi appuntamento a sabato prossimo e augurarvi buon cinema con la Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi.